effetto. Qua cervo di metafore che esprimono un concetto. Assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi tu incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire! E allora 1359 in onde medie, siete su Radio Wombat, questo è lo spazio radiofonico della stampa rassegnata e questa settimana ci vogliamo occupare della questione dell'acqua, delle criticità della gestione privata, privatistica, benché in forma mista delle nostre acque, della gestione delle nostre reti e soprattutto diamo questo spazio a Rossella Michelotti, una delle portavoci del Forum Toscano per la ripubblicizzazione dell'acqua, anche perché per l'appunto martedì 4 dicembre ci sarà un importante appuntamento lanciato per l'appunto dai movimenti che lottano da anni per la ripubblicizzazione dell'acqua e a lei chiediamo ovviamente di spiegare il perché e il per come di questo appuntamento di martedì, oltre ad approfittare della sua gentilissima disponibilità e della sua competenza derivata da un impegno militante e da un attivismo che va avanti nel tempo da diversi anni, per fare un aggiornamento e una panoramica generale su quelle che sono appunto le problematiche legate alla gestione dell'acqua e quelle che invece sono le rivendicazioni dal basso popolari che i movimenti sostengono da tempo dopo il passaggio che spero diversi tra gli ascoltatori e le ascoltatrici della nostra radio ricorderanno del referendum con il quale la volontà popolare si era espressa chiaramente nella direzione di una ripubblicizzazione della risorsa che però non è avvenuta e quindi a Rossella appunto chiediamo anche un po' i retroscena di questi dei tanti tecnicismi con cui la politica e i consigli di amministrazione sono riusciti ad evitare e a ritardare ancora ad oggi quella che doveva e voleva essere una ripubblicizzazione dell'acqua. Ciao Rossella, un saluto a te da parte della radio, di tutti noi ascoltatori e ascoltatrici e niente, microfono libero e campo libero per il tuo intervento. Allora, salute innanzitutto, santi saluti a tutti gli ascoltatori che credo siano andati in massa a votare per il referendum del 2011, che ricordo era per l'acqua pubblica e senza profitti. E il 4 ci sarà un appuntamento importantissimo, perché il sindaco Dardella, dopo aver fatto lo spot elettorale di dire si ripubblicizza l'acqua in Toscana, immediatamente dopo va ad approvare in conferenza territoriale la proroga del servizio a Publiacqua. Il servizio non scadrà più come previsto nel 2021, ma si prorogherà fino al 2024. Noi siamo nettamente contrari a questo. Credo che basta vedere la qualità di servizio che offre Publiacqua. Io su questo fa riferimento alla relazione del direttore generale dell'autorità idrica toscana sulla qualità tecnica e sulla qualità commerciale del servizio di Publiacqua. È l'autorità nazionale che ha imposto questo tipo di valutazione e ha fatto una classifica, per dire, sulla qualità tecnica dalla A alla E. In A sono i migliori gestori, in E naturalmente i peggiori. Publiacqua si attesta per la qualità dell'acqua erogata, cioè per quella che noi beviamo alla cannella, in classe D, è fra le penultime in Italia. Questo nonostante ci abbia sempre detto, continuamente ripetuto, che le tariffe della Toscana sono le più care di tutta Italia, perché noi abbiamo una qualità dell'acqua eccelsa. Naturalmente è stata smentita non dai forum dell'acqua, e quindi da una parte, ma è stata smentita da una classificazione fatta dall'autorità nazionale, ma non solo sulla qualità dell'acqua erogata. L'acqua che esce dai nostri depuratori è sempre in classe D, cioè significa che il sistema di depurazione in Toscana, soprattutto quello di Publiacqua, funziona malissimo. Per le perdite idriche della rete è sempre in D, e io voglio ricordare che perde il 48% dell'acqua che preleva, se lo perde nelle condutture. E addirittura c'è il dato eclatante che in Toscana è tra le peggiori dei gestori toscani, perché ogni metro di lineare di rete idrica perde circa 8 metri cubi, oltre di 8 metri cubi d'acqua, quindi ci si potrebbero riempire per le perdite annuali circa 8 milioni di fiscine della dimensione 3x3. Sono perdite secondo noi eclatanti. Ma il dato ancora più preoccupante è la questione legata alla rete fognaria. Nella rete fognaria siamo ultimi in tutta Italia, siamo in classe E, quindi veramente abbiamo una gestione della fognatura che è pessima, ma questo ha un significato preciso sulla qualità dei nostri fiumi, dei nostri torrenti, dei nostri laghi. Significa che le fognature sversano reflui fognari, e che quindi questo spiega come mai in Toscana abbiamo pessime qualità dell'acqua superficiali, non solo superficiali ma anche quelle profonde. Per quanto invece attiene la qualità commerciale, che riguarda rapporti con gli utenti, rapporti Publiacqua utenti, per le risposte che danno, per i tempi di attesa agli sportelli, per i tempi di attesa al telefono, per i tempi di allacciamento, per tutta una serie di parametri, anche per la qualità commerciale, sono in classe D. Quindi qualità pessima anche nei rapporti con gli utenti. E addirittura sulla qualità contrattuale, Publiacqua deve pagare circa 1.600.000 euro di penali perché non rispetta quanto previsto dalla carta dei servizi. E nonostante questo, i nostri sindaci, invece di togliere anticipatamente a Publiacqua la concessione, vogliono prorogarla di altri 3 anni. Credo che questo sia veramente un dato eclatante. E Rossella, scusa, è martedì per l'appunto la discussione alla quale c'è l'invito a partecipare in forma, diciamo, di massa e in qualche modo con la funzione di esercitare una sorta di pressione politica e popolare sui sindaci. Si discute per l'appunto il rinnovo della concessione a Publiacqua, giusto? Certo, in sede di conferenza territoriale si discute di questo argomento. Secondo me il ruolo dei sindaci è un ruolo fondamentale. Vorrei precisare una cosa, che i sindaci hanno avuto in questo periodo un ruolo di controllori nelle conferenze territoriali e nell'autorità idrica toscana, di controllori sul gestore, perché tariffe, piani di investimento, carte dei servizi, non è il gestore, non è Publiacqua a deliberarli, ma sono deliberati da sindaci e al tempo stesso hanno un ruolo di controllare il funzionamento, se vengono attuati gli investimenti, se le tariffe sono corrette, se la carta dei servizi è rispettata. Beh, io vorrei dire qualcosa sugli investimenti. Publiacqua, sì, certo. Dal 2007 al 2017 non ha fatto circa il 60-70% degli investimenti programmati. Mancano all'appello oltre 200 milioni di investimenti che erano previsti nei piani d'ambito, nei piani di intervento, e che non sono mai stati rispettati. Ora, con la scusa che c'è necessità di altri investimenti, si proroga la concessione. Ma dove erano i sindaci quando dovevano controllare che gli investimenti venissero fatti? Ma non solo, prima del 2012 noi gli investimenti li pagavamo anticipatamente in tariffa, e degli investimenti che si pagava anticipatamente in tariffa ne mancano circa un centinaio di milioni. Che controllo hanno effettuato i sindaci? Hanno mancato completamente alla loro funzione e continuano a fidarsi di un gestore che continua a fare solo una parte. Anche per l'anno scorso ha effettuato non tutti gli investimenti, solo una parte. Gli si rinnova la concessione proprio perché per questa necessità. C'è anche da dire che la Toscana è sotto infrazione della Comunità Europea per non aver rispettato assolutamente l'adeguamento della depurazione. Cioè, ci sono centri abitati oltre 10.000 abitanti equivalenti e oltre 2.000 abitanti equivalenti che dovevano in questi anni essere messi a norma e che non sono mai stati messi a norma. Quindi pagheremo pure delle penali alla Comunità Europea per le nostre mancanze e per le mancanze soprattutto di gestore, le mancanze del mancato controllo da parte dei sindaci. La questione grossa è che i sindaci sono da una parte soci di Publiacqua, quindi hanno interesse nella gestione, anche perché una parte degli utili che tutti gli anni Publiacqua distribuisce, io vorrei ricordare che il 60% va al socio pubblico e non solo il 40% è privato. Quando c'è, dall'altra parte dovrebbero controllare, quando controllato e controllori sono la stessa figura, secondo noi le cose funzionano male, come in effetti stanno funzionando. Certamente. E senti Rossella, per quanto riguarda la situazione dei lavoratori, dei dipendenti di Publiacqua, degli appalti, dei subappalti, qual è la responsabilità dei gestori, la situazione sia dal punto di vista dei diritti sindacali, delle condizioni di lavoro, del numero degli occupati? Cosa è successo in questi anni? Allora, in questi anni si è avuto una diminuzione dei dipendenti di Publiacqua di circa 200 unità, siamo passati da 700 e passa a 500 e passa. E questo significa aver affidato la maggior parte dei lavori a ditte in appalto e subappalto, e si sa quando nessuno è così direttamente responsabile dei lavori, i lavori vengono eseguiti in maniera più approssimativa. E a proposito di lavoro, vorrei citare il sistema di controllo che ha messo in piedi Publiacqua. Noi abbiamo pagato negli anni passati circa 47 milioni di euro per un sistema informatico che si chiamava VFM, che è una sigla, ovviamente una sigla, no? Sì, Workforce Management, controllo praticamente della forza lavoro, dell'impiantistica e sistema di fatturazione, e lo abbiamo pagato, cioè vengono telecontrollati gli impianti, viene telecontrollato il lavoro. Addirittura un gestore della Toscana ha messo il braccialetto ai lavoratori, credo, dei rifiuti. Quindi un controllo, io direi, che a volte non l'hanno neppure chi è condannato e che c'ha l'obbligo. Sì. Come insomma il modello Amazon, come, sì, come si è visto. Come se fossero dei delinquenti, diciamo. Sì, praticamente. Il sistema di fatturazione. Questi 47 milioni sono stati gettati via È stato adottato due o tre anni fa un nuovo sistema, quello di ACEA, che si chiama ACEA 2.0. È un sistema che ha molteplici criticità, sia per quanto riguarda la fatturazione: le fatture arrivano sempre in ritardo, sono spesso inesatte, addirittura si fanno più fatturazioni nell'arco di pochissimo tempo, diventa difficile chiedere le rettifiche della fattura, insomma ha tutta una, e sia secondo noi a forte criticità anche sul telecontrollo degli impianti. Ma questo lo ammette addirittura l'autorità idrica toscana, dicendo con il nuovo piano che questa CEA 2.0, costato 7 milioni di euro, dovrà essere implementato, dovrà essere aggiornato, spendendo altri 11 milioni e passa di euro. Però c'è un gioiello alla fine, che a fine nel 2021, a fine concessione, quando scatterà i lavori per tornare solo ai soci pubblico, dovremo spendere altri 9 milioni di euro per gettare tutti i soldi che abbiamo già speso via e per tornare a gestire direttamente il servizio. Io credo che sia una vergogna aver fatto spendere 70 milioni di euro con questi giochi, credo sia veramente indegno. Noi abbiamo chiesto più volte che il contratto con ACEA di Roma fosse reso pubblico per capire che cosa conteneva questo contratto, a tutt'oggi non abbiamo avuto risposta. Che poi, scusa Rossella, ma ACEA è anche un po' obiettivo o di polemiche, di un target di diatribe, no? Da parte di Nardella, ovviamente. Qualche tempo fa col sindaco Nardella ero ad una conferenza stampa organizzata lì a Palazzo Vecchio, e alla conferenza stampa prima di me c'era appunto Nardella, il quale ha gridato a noi dei comitati dell'acqua di chiedere spiegazioni sul malfunzionamento di Publiacqua alla Raggi. Innanzitutto sono stati sindaci che nei patti parasociali hanno deciso che l'amministratore delegato dovesse toccare al socio privato. Io credo che in nessuna società per azioni il socio di maggioranza rinunci all'amministratore delegato, mentre in Toscana i nostri sindaci hanno stabilito che l'amministratore delegato dovesse spettare solo a chi ha il 40% in Publiacqua. Quindi questa è la loro prima grossa responsabilità, ma non solo, a stabilire investimenti, ripeto, tariffe, carta dei servizi, non è il gestore, ma è un mero esecutore. Publiacqua deve eseguire quello che viene ordinato dai sindaci, e la funzione di controllo, ripeto, ce l'hanno dei comitati territoriali e in autorità idrica toscana i sindaci, quindi è loro completa responsabilità di quanto è successo, e non si può attribuire responsabilità a chi non ne ha. La Raggi ce ne avrà anche lei, perché anche lei ha prorogato la concessione a CEA fino al 2031, ma ognuno si deve assumere le proprie e non rigettarle costantemente sugli altri. Certo, perché giustamente laddove si ha, diciamo, ripetiamolo, la distribuzione del capitale azionario è tale che il 60% delle azioni appartiene al pubblico e il 40% al privato. Quindi siamo in presenza di una maggioranza pubblica che, per come dagli anni 90 ad oggi ci hanno raccontato le privatizzazioni, questa maggioranza pubblica, questa maggioranza di quota pubblica dovrebbe garantire un controllo pubblico e quindi garantire un rispetto di diritti, di qualità del servizio e tutelare in qualche modo eventualmente dall'ingerenza del privato che tende a fare profitti su quello che dovrebbe invece essere un servizio essenziale. Invece qui assistiamo esattamente al contrario e forse è addirittura più grave la situazione di un'azienda pubblico-privata di quanto lo sarebbe se i gestori fossero del tutto privati, perché ricordiamo anche che Publiacqua si muove in una situazione di monopolio, perché chi di noi dicesse io sono insoddisfatto non è che si può rivolgere a qualcun altro come facciamo con le tariffe del telefonino o di internet o di qualunque altra cosa. Certo, noi abbiamo chiesto con forza, come Forum dell'Acqua Nazionale e come Forum dell'Acqua Toscana, che le competenze sull'acqua non siano affidate ad ARERA, che è l'autorità nazionale che si occupa di luce, gas, adesso anche acqua e a breve si occuperà anche dei rifiuti. Perché mentre io posso cambiare il mio gestore della luce, il mio gestore del gas, non posso assolutamente cambiare quello dell'acqua, io sono costretta a rimanere a quello, essere sottoposti spesso alle vessazioni che questi gestori fanno. Vorrei dire anche qualche altra cosa sugli utili, perché sì, credo sia di importanza fondamentale. In tutti questi anni Publiacqua ha distribuito utili molto consistenti. Nel 2016 mi sembra fossero 30 milioni non distribuito, ha fatto utili per 30 milioni, uh-huh. Una parte distribuita e una parte riportata a nuovo, che comunque anche quelli riportati a nuovo a fine concessione verranno distribuiti. E a chiedere una maggiore distribuzione degli utili non è mai stato l'amministratore delegato, espressione del socio privato. Questa maggiore distribuzione degli utili è sempre stata chiesta dall'assessore Perra, rappresentante in Publiacqua del Comune di Firenze. Quindi ci preoccupa questa voracità dei sindaci che o per fare opere di restyling della propria città o per ripianare buchi di bilancio chiedono alle partecipate una distribuzione sempre di utili sempre maggiore. Non solo su questa storia degli utili, con la proroga è previsto che gli utili anteimposta, che erano di circa 32 milioni nello scorso anno, passeranno per quest'anno a circa 60 milioni, praticamente raddoppiano addirittura. E considerando che i ricavi complessivi di Publiacqua sono circa 260 milioni di euro, quasi il 25% di bilancio sono inutili. Nessuna società per azioni, ma nessuna attività fa utili per un 25%, nemmeno l'oro nero, il petrolio fa questi utili, solo l'acqua è veramente diventata scontro di battaglia a livello mondiale, perché le multinazionali adesso non stanno più cercando di appropriarsi del petrolio, ma stanno cercando di appropriarsi delle fonti di approvvigionamento dell'acqua potabile, anche perché diventa una risorsa sempre più scarsa, diventa una risorsa grazie alla mala gestione sempre più inquinata, e quindi è veramente l'oro blu l'acqua. Ho chiesto al caso che cosa devo fare, sono stanco del mio ruolo e ho voglia di cambiare, non so se andare avanti o se è il caso di scappare, o se è solo il bisogno di un nuovo sogno da sognare. Adesso che ho quello che ho sempre voluto, mi sento un tantino legato. Vorrei sparire per ricominciare da capo con un nuovo mazzo di carte, un nuovo gioco. Guarda bene dentro te stesso, non giudicare gli altri e cerca invece di capire. Butta via lo specchio che c'è il mondo da guardare. Dovrei essere come l'acqua che si lascia andare, che scivola su tutto, che si fa assorbire, che supera ogni ostacolo finché non raggiunge il mare. E lì si ferma a meditare per scegliere se essere ghiaccio o vapore, fermarsi o se ricominciare. La re di la re e le peura, dovrei essere come l'acqua che si lascia andare, che scivola su tutto, che si fa assorbire, che supera ogni ostacolo finché non raggiunge il mare. E lì si ferma a meditare per scegliere se essere ghiaccio o vapore, fermarsi o se ricominciare. Che ci hai parlato di utili veramente impressionanti a fronte di investimenti nell'ammodernamento, nella manutenzione della rete, che sembrano, per quello che ci hai detto, quasi inesistenti, perché se abbiamo delle acque che vengono raccontate come di eccellenza, ma in realtà sono classificate tra le penultime, vuol dire che l'acqua che esce dai nostri rubinetti è veramente di scarsa qualità. Ci hai parlato di un sistema fognario, di sversamenti, di una scarsissima capacità di depurazione, quindi questi nella rete cosa reinvestono? Dirò alcune cose, continuo sugli utili, sulla questione foni. Noi paghiamo in tariffa un fondo che si chiama Fondo Nuovi Investimenti, che rappresenta una quota della tariffa, e lo dice il nome stesso, è un fondo che dovrebbe essere destinato agli investimenti futuri. Publiacqua, a differenza di altri gestori che mette questo fondo in un fondo speciale d'accantonamento appunto destinato agli investimenti, lo mette tra i ricavi e, cosa assurda, gli utili distribuiti in buona parte sono costituiti dal fondo. Dei 30 milioni di profitti del 2016, circa 23 sono fondi, cioè quello che noi paghiamo per fare dei nuovi investimenti, questi signori, sindaci e socio privato, se li distribuiscono invece di reinvestirli, se li distribuiscono come utili. Non solo, te mi parlavi appunto di manutenzioni, e gli investimenti si dividono prevalentemente fra nuovi investimenti, che sono quelli effettivi, cioè nuovi impianti, nuove reti fognarie, nuove reti acquedottistiche, e manutenzioni e sostituzioni. La maggior parte degli investimenti che Publiacqua fa, circa il 46%, sono fra le manutenzioni e sostituzioni che loro dicono straordinarie e che li classificano come investimento. Noi abbiamo contestato a lungo il disciplinare tecnico che l'autorità idrica ha fatto ai gestori, perché secondo noi tante manutenzioni ordinarie che dovrebbero rientrare nei costi operativi vengono fatte passare per investimento. Certo. Se si deve rompere una strada perché c'è una perdita d'acqua, sì, e non la trovi subito, devi come minimo rompere un 6 metri di strada. Se sostituisci 6 metri di tubo, viene considerata un investimento. Non solo, le ricerche fatte con tecnologie un po' avanzate di perdite nella rete fognaria o nella rete idrica sono considerate investimento, ma se te vai a cercare una perdita non è certo un investimento. Certo, è manutenzione. Cioè, mi sembra cioè fanno passare per investimento quello che non è. E ripeto, gli investimenti vengono presi con i mutui e vanno ad accrescere poi il valore residuo che dovremmo pagare al socio privato a fine concessione. Quindi creano artificiosamente una situazione che li spingerà tutti a dire che non si può non rinnovare, perché insomma i soldi costituirebbero praticamente un monte di penali che è eccessivo. Le giustificazioni sono due: che non ci sono tempi tecnici per ripubblicizzare, ma ci sono 3 anni. È possibile che in 3 anni non si riesca a far mettere d'accordo sindaci per una nuova gestione e a fare un piano per ripubblicizzare? Noi la riteniamo una scusa. Non solo, l'altra scusa sono le tariffe, perché con gli investimenti programmati le tariffe crescerebbero del 10%. Allora, le nostre considerazioni: uno, dovrebbero ricontrollare seriamente tutti gli investimenti effettuati e ricalcolarlo il valore residuo. Secondo noi questo dovrebbe essere la prima cosa che fanno i sindaci, ma anche ammesso che non lo facciano, ci sono alcune considerazioni da fare. È vero che si potrebbero fare meno investimenti, fare solo quelli necessari, che sono quelli relativi alla depurazione e alla fognatura, per cui andremo in infrazione con la Comunità Europea, e rimandare in parte quelli della rete idrica agli anni in cui avremo un socio completamente pubblico, anche perché nel piano degli investimenti con la proroga la maggior parte degli investimenti previsti nella rete vanno dal 2021 al 2024, quindi già loro l'hanno previsti nei 3 anni successivi al 2021, tanto vale spostare una parte anche di quelli previsti prima. E sulle tariffe rientro: nel 2021, se si torna come socio pubblico, innanzitutto non pagheremo più i canoni di concessione comuni. I comuni ricevono, noi paghiamo in fattura circa il 13% è dovuto a canoni di concessione. I canoni di concessione al 2021 cesseranno, quindi ci sarà una diminuzione delle fatture dovute alla fine dei canoni. Non solo, il FONI si spera che il socio pubblico lo acconsoni e non lo distribuisca, anzi noi vogliamo che siano società non di diritto privato, quindi SPA, che facciano profitto. Non vogliamo aziende speciali afferenti a diritto pubblico o aziende consortili che debbano reinvestire tutti gli utili nella rete. Nella rete o nella depurazione o nella fognatura. Non solo, si garantisce al gestore dei costi più alti rispetto a quelli che effettivamente sostiene. Con un socio pubblico si pensa non sia necessario garantire costi più alti di quelli che effettivamente uno spende. Tutte queste al 2021, se si ripubblicizza, dovrebbero far abbassare notevolmente le tariffe, mentre se noi proroghiamo continueremo a pagare utili fino al 2024. Certamente, quindi in sostanza si può tranquillamente affermare che è volontà politica quella che manca, mentre da un punto di vista tecnico è possibile. Ripubblicizzare è possibile e sarebbe possibile da domani stesso. Noi del forum siamo cattivi, giustamente, perché quelli troppo buoni, i soci che prendono maggiori utili, i soci pubblici, sono il comune di Firenze e il comune di Prato attraverso Consiag, la domanda, cioè il dubbio che ci sorge è: siccome vanno ad elezioni, sì, vogliono far finta di mantenere le tariffe basse, distribuirsi un bel po' di utili per poi far bella figura con certe opere nell'ambito di comune, che sia tutta una strategia legata alle elezioni. Sì, alla scadenza elettorale, che insomma non ci stupirebbe, anche se non siamo... Insomma, nessuno è nato ieri, ecco, che la scadenza elettorale è sempre un momento in cui l'immagine va curata in modo particolare, oltre al normale gioco di vetrina e di messa in mostra di sé, è evidente. Quindi quello che dici è molto molto molto probabile, senza nessuna cattiveria, insomma, semplicemente è l'esperienza politica e di attivismo che ce lo insegna e ci induce a pensare in questi termini. Volevo, Rossella, chiederti anche un'altra cosa. Anni fa, se ti ricorderai sicuramente anche meglio di me e di noi, che era venuto fuori la questione di alcuni chilometri di rete idrica di distribuzione fiorentina con amianto, insomma, nelle tubature. Ti volevo chiedere se era venuto fuori qualcosa negli ultimi anni, se c'era stato delle novità, se Publiacqua aveva messo mano a queste cose, o se la questione è rimasta poi, come spesso avviene, veramente sottoterra, è proprio il caso di dirlo, anche per le difficoltà che spesso abbiamo, senza nasconderci niente, anche tra movimenti, attivisti e reti di comitati, nel seguire e dare seguito alle vertenze laddove si scopre qualcosa di interessante e preoccupante, come quella della fibra d'amianto nei nostri tubi. Allora, finalmente a livello medico si riconosce che l'amianto non fa male solo se respirato, ma fa male anche ingerito. Ecco. Innanzitutto c'è questa questione. E poi c'è la questione che noi le pulizie di casa le facciamo con l'acqua, e gli abiti che indossiamo li laviamo con l'acqua della cannella, per cui quando si asciuga l'acqua, le fibre che sono contenute nell'acqua ce le respiriamo. Noi abbiamo fatto una petizione diverso tempo fa per togliere le reti in amianto. Posso assicurarvi che niente è stato fatto e che nemmeno della proroga della concessione è prevista la sostituzione delle tubature in amianto. Sono stati fatti solo piccoli interventi in qualche comune, ma la maggior parte delle tubature in amianto permangono. Io voglio dire, ci sono tecnologie, per dire, nel nord Italia che riparano le perdite nelle reti idriche con delle resine speciali che vengono messe a pressione nelle tubature e che rivestono completamente, impedendo le perdite. Forse potrebbe essere, e che costano pochissimo, hanno tempi brevissimi, costano pochissimo. La Toscana non adotta assolutamente queste tecnologie, anche perché appunto se si fanno passare 6 metri di tubo nuovo per investimento si guadagna, ecco, molto appunto di più con le vecchie tecnologie che con le nuove. E purtroppo niente è previsto, niente è stato fatto e niente si farà in futuro. Così si i va, cittadini insomma toscani continueranno a bere acqua con fibre di amianto e avere nell'ambiente domestico con lo spolveramento fibre di amianto. Questa è la triste realtà e niente, insomma, noi così sentendoci anche in privato ci eravamo fatti una battuta, ma che poi battuta non è, no? Sul fatto che veniamo spesso accusati di essere quelli contro le grandi opere, contro questo e contro quello, di non proporre alternative. Invece noi, diciamo, le alternative ce le abbiamo proprio, perché se rispetto a quello che si è detto, un percorso lento ma inesorabile come quello che immaginiamo e desideriamo di ripubblicizzazione dell'acqua e di messa seriamente in moto di meccanismi migliorativi sia nella rete che nella depurazione che nelle fogne, secondo noi sarebbero veramente una grande opera utile al servizio delle comunità e dei cittadini, che si contrapporrebbe al profitto privato e allo sfruttamento dei nostri territori e andrebbe nello stesso tempo a creare quell'occupazione e quelle opportunità di lavoro di cui tanto parlano e che molto spesso vengono usate in modo strumentale e propagandistico per raccontarci di quanto siano essenziali e strategiche ben altre opere. Con questo ovviamente ci riferiamo, per quanto riguarda lo specifico della nostra trasmissione, all'inceneritore e l'aeroporto di cui abbiamo tante volte parlato. E quindi, Rossella, diciamo, dopo una buona mezz'ora di conversazione nella quale certo, assolutamente, infatti le ultime battute e poi insomma ripetiamo poi l'appuntamento di martedì. Aggiungi certo tutto quello che vuoi. Che noi ci siamo schierati contrari contro il piano strategico regionale sul servizio idrico, perché anche questo piano strategico prevede grandi opere che secondo noi non risolveranno assolutamente il problema. Il piano strategico regionale, invece di preservare e salvaguardare la risorsa locale acqua, prevede di interconnettere quasi tutte le reti idriche della Toscana, facendo un anello intorno a tutta la Toscana, e addirittura si pensa di portare dall'Alpi Apuane l'acqua a Livorno. E poi la manutenzione chi la fa? Il territorio di Asa consuma solo 27 milioni di metri cubi d'acqua, pagandolo 3,2 euro a metro cubo. La Solvè da sola consuma acqua che potrebbe essere potabilizzata, 22 milioni di metri cubi d'acqua, pagandoli 5 centesimi a metro cubo. Noi crediamo che la salvaguardia della risorsa si fa imponendo alla Solvè un sistema diverso di approvvigionamento idrico, magari dotandosi di un dissalatore e facendo, senza considerare come rilascia poi questa acqua sui territori. Basta citare le sabbie bianche, le spiagge bianche, e questo ci si rende conto cosa succede, cosa fuoriesce dopo averlo utilizzato. Non solo, tutti gli impianti di depurazione sono collegati nel fondovalle, sono grandi impianti, dotati tutti di lunghe condotte fognarie, dosate di scolmatori che sversano reflui fognari, come dicevo, in torrenti e fiumi. L'ARPAT classifica le nostre acque superficiali nelle peggiori classi, 50% è in A3, che è la peggiore, e addirittura in Toscana ci siamo inventati la sub-A3, che ha bisogno di deroghe per essere utilizzata per uso potabile. Noi vorremmo impianti più piccoli, più vicini ai cittadini, e soprattutto che la rete fognaria non fosse una rete fognaria mista. Rete fognaria mista significa che ci va anche l'acqua piovana. L'acqua piovana mette in continuo funzionamento gli scolmatori e si versa di fuori. Non solo, quando i reflui fognari sono troppo diluiti, i depuratori vanno a tilt, non funzionano. Infatti, basta venga un po' di pioggia, c'è il divieto di balneazione su tutta la costa, perché il sistema smette di funzionare. Noi abbiamo le nostre proposte, è che si preferisce i grandi investimenti, perché i grandi investimenti si sa tutti cosa c'è dietro, gli interessi, i profitti, quando non c'è di peggio le ditte collegate. La mafia, insomma, lo possiamo dire senza paura, senza vergogna, perché insomma le inchieste anche della magistratura sulla Toscana in questi ultimi 20 anni... smaltimento rifiuti, esatto. Si sa cosa succede. Sì, no, infatti, Rossella, quello che hai detto di questa ipotesi di interconnessione regionale delle tubazioni, insomma, prevederebbe anche una movimentazione terre ingentissima, gigantesca, e movimentazione terre che interconnetta Tofano significa movimenti terra, e su movimenti terra si sa chi lavora. Ecco, si sa chi lavora, e spesso, insomma, come è venuto fuori, io ricordo così, guardando la cronaca qui nella, diciamo, nella provincia di Arezzo, di una strada che è crollata perché il terrapieno era stato fatto tutto con materiali di risulta, tra materiali di risulta edile e amianto, quindi la movimentazione terra è proprio uno dei capitoli del lavoro sui nostri territori che più preoccupa e più spaventa, e nonostante questo è uno di quelli a cui le nostre istituzioni, i nostri decisori pubblici guardano sempre con più favore e con più interesse. Certo. Evidentemente quello che diciamo, noi ce ne assumiamo tutta la responsabilità, come d'altronde voi, senza nessun problema. C'è anche dietro ditte sporche che fanno riferimento a filiere mafiose, 'ndrangheta, camorra, abbiamo visto di tutto, sono state sempre chiamate infiltrazioni, ma forse più che infiltrazioni è proprio una messa a sistema di quel tipo di imprenditoria. Certo. La Toscana è una terra appetibile da questo punto Sì, di vista. Sì, sì, sì, e siamo ormai, insomma, molto, molto fuori dal racconto che la Toscana fa di sé in tutto il mondo, di un modello diverso, che a noi diverso sembra sempre meno. La Toscana è quarta dopo Puglia, sì, sì, lo è, Sicilia, lo è, lo è. Campania. Sì, lo è dalla commissione parlamentare d'inchiesta, era uscito qualche mese fa. E niente, quindi con questa tristissima consapevolezza, però rilanciamo l'appuntamento di martedì, che vorrebbe essere in qualche modo anche uno dei tanti passaggi con cui il movimento per la ripubblicizzazione dell'acqua e più in generale per la difesa dei nostri territori e della risorsa idrica, che resta un elemento centrale nella crisi ecologica che stiamo vivendo e subendo in questo passaggio epocale. Martedì 4 dicembre saremo alle ore 15, giusto? Sì, alle ore 15 a Palazzo Bastogi in via Cavour. In via Cavour. Un appello ai sindaci che finalmente rispettino la volontà popolare dei propri cittadini e che votino contro questa proroga, e ai cittadini a venire ad ascoltare se i loro sindaci alzeranno la mano oppure voteranno contro. E soprattutto che alle elezioni se ne ricordi. Ricordiamoci tutto e aggiungiamolo alla lunga lista di soprusi dei quali, insomma, parliamo con una certa continuità. Se non hai altro da aggiungere, Rossella, dimmelo te, se non hai altro da aggiungere, allora un saluto per la tua grande disponibilità e competenza, riservandoci chiaramente la libertà e il diritto reciproco, cioè noi con te e te con noi, di risentirci in futuro qualora ci fossero degli aggiornamenti da dare, delle riflessioni interessanti da portare fuori dagli ambiti delle reti di movimento, che appunto fanno spesso fatica, nonostante il grande fiorire di strumenti informatici, digitali, pagine Facebook, social network, eppure restiamo spesso troppo perimetrati, ognuno nel nostro. E quindi, insomma, sì, speriamo di poterci risentire. I comitati che fanno le battaglie sui territori è uno strumento utilissimo. Benissimo. E allora, Rossella, ancora grazie, un salutone, a risentirci presto e a vederci martedì 4 dicembre alle ore 15. A Palazzo Bastoci, via Cavour, a Firenze ovviamente. Ciao ciao. Ciao ciao. E allora abbiamo salutato Rossella, che gentilissima ci ha concesso questa lunga intervista, che spero sia risultata interessante, che ha occupato l'intero spazio della trasmissione di questa settimana. Per chi si fosse collegato adesso, siete su Radio Wombat, questa è la Stampa Rassegnata. Vi lascio adesso ad un pezzo musicale, un qualcosa di un po' curioso, un pezzo andino dei Cocia Bambini, che una quindicina d'anni fa lottavano contro la privatizzazione dell'acqua e del gas in quelle che sono state chiamate guerre, proprio per le caratteristiche di conflitto aperto, anche armato, molto forte di una situazione che fu ai limiti dell'insurrezionale. Chiaramente questo è uno scenario abbastanza lontano dai nostri territori, dalle nostre regioni, dal nostro paese, dal nostro continente, ma sappiamo con certezza che la privatizzazione dell'acqua per alcune popolazioni significa entrare immediatamente in conflitto con il proprio diritto alla vita, e così fu proprio in quegli anni in America Latina e sicuramente continua a succedere. Quindi questo pezzo dedicato alle lotte in difesa dell'acqua e per l'acqua bene comune in tutto il mondo, e con questo un pugno chiuso a tutti e a tutte voi, a risentirci per la prossima settimana. Ciao! Y al campesino, mucho estudiante, cocha bambino.